crede nelle dimissioni di Mubarak. Settimana decisiva per il governo, in arrivo il giudizio immediato per Berlusconi. Stop al dialogo con l'opposizione, vertice oggi a Palazzo Grazioli. Disoccupazione giovanile mai così alta in Italia, siamo al 29% secondo l'Istat. Energia dal sole, un 2010 da record per l'Italia, secondo il gestore. Buongiorno da Alessio Maurizi, benvenuti a questa edizione di GR24. Dunque, come avete sentito, giornata campale per l'Egitto, ne parleremo tra poco. Adesso facciamo il punto sulla situazione invece per quanto riguarda la politica e l'economia in Italia. Nuovo record della disoccupazione giovanile, salita oltre il 29%. Un dato stabile per il ministro Sacconi, un dato comunque preoccupante per la nostra situazione economica. E oggi vertice di maggioranza a Palazzo Grazioli, in una settimana decisiva per il governo, con la richiesta di giudizio immediato per Berlusconi in arrivo al Tribunale di Milano e le porte chiuse per il dialogo con l'opposizione, proprio sulla crescita. Andiamo a Palazzo Grazioli con Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, in corso dunque il vertice PDL qui a Palazzo Grazioli con il Presidente del Consiglio Berlusconi, oltre al Premier sono presenti i coordinatori nazionali del partito Verdini, La Russa e Bondi, insieme ai capigruppo di Camera e Senato Cicchitto e Gasparri, in via del plebiscito anche il Ministro degli Esteri Frattini, Guardasigilli Alfano e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Bonaiuti. Al centro dell'incontro con il Cavaliere, i temi economici e la situazione politica, si stanno mettendo a punto le strategie parlamentari per giovedì, quando si voteranno in bicamerale il federalismo municipale e in aula la Camera l'autorizzazione a procedere per le perquisizioni negli studi del tesoriere di Berlusconi. Sul fronte economico poi si stanno approfondendo le iniziative annunciate ieri dal Presidente del Consiglio per rilanciare la crescita, dalla proposta di riforma dell'articolo 41 della Costituzione sulla libertà di impresa ad un piano per la defiscalizzazione nel Mezzogiorno, proposte, lo ricordiamo, bocciate dall'opposizione che compatta chiede a Berlusconi di fare un passo indietro. E da Roma è tutto. E a proposito dell'opposizione, c'è da registrare la defezione di Luca Barbareschi dal gruppo Futuro e Libertà, perché l'annuncio è di poco fa. Barbareschi lascerà il gruppo per aderire invece ai responsabili di Silvano Moffa. Barbareschi che ieri è stato ricevuto ad Arcore dal premier Silvio Berlusconi, nel pomeriggio dovrebbe incontrare invece Gianfranco Fini alla Camera. E sono in corso da questa mattina delle perquisizioni nell'abitazione romana della giornalista del Giornale Anna Maria Greco e nella sede del quotidiano Il Giornale, mentre sempre a Roma risulta indagato per abuso d'ufficio il consigliere laico del CSM Matteo Brigandile. Le due vicende sarebbero legate, ci racconta tutto Elisabetta Fiorito. Sì, a disporre le perquisizioni sarebbe stata, secondo quanto denuncia il Giornale, il pubblico ministero Silvia Sereni, e l'ipotesi sarebbe abuso d'ufficio. Perquisizioni, come avete detto, nella sede romana del Giornale e nell'abitazione della giornalista Anna Maria Greco. Secondo il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, il motivo sarebbe l'articolo apparso sul PM di Milano, Ilda Boccassini, che nel 1982 fu sorpresa in atteggiamenti amorosi con un giornalista di lotta continua. Per la Procura di Roma sarebbe indagato il consigliere laico del CSM, Matteo Brigandì, della Lega Nord, che avrebbe passato documenti interni del CSM alla giornalista Anna Maria Greco, la reporter che poi ha redatto l'articolo sulla Boccassini. Brigandì dice di non saperne nulla e di non aver nulla da dire. Nella nota del quotidiano, i carabinieri hanno fatto irruzione a casa della giornalista intorno alle 9 e hanno sequestrato il suo computer e quello del figlio. Nella sede del Giornale hanno controllato proprio il PC della giornalista Anna Maria Greco, e per il direttore Sallusti ovviamente la casta dei magistrati mostra per l'ennesima volta il volto violento e illiberale, si tratta di un'aggressione alla libertà di stampa. Per il momento qui da Roma è tutto, poi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. E dunque, come dicevamo, per quanto riguarda l'inchiesta milanese sul caso, lo scandalo Ruby, in arrivo la richiesta per Berlusconi di giudizio immediato, sentiamo. È attesa a giorni, entro venerdì, la richiesta di giudizio immediato per Silvio Berlusconi. I PM Ilda Boccassini, Pietro Forno e Antonio San Germano stanno limando i capi di imputazione, concussione e prostituzione minorile, che saranno cristallizzati nell'atto con cui chiederanno al GIP di saltare l'udienza preliminare riconoscendo l'evidenza della prova. Toccherà sempre al GIP valutare le eventuali istanze di incompetenza funzionale e territoriale. Nessun nuovo interrogatorio per Nicole Minetti, sentita domenica scorsa. corsa, interrogatorio giudicato esaustivo. Davanti ai magistrati, la consigliera regionale del PDL, indagata per favoreggiamento della prostituzione insieme a Lele Mora ed Emilio Fede, si sarebbe avvalsa per almeno 3 volte della facoltà di non rispondere e non avrebbe nascosto di aver avuto con il premier una relazione affettiva, giustificando come un prestito i 22.000 euro ricevuti. Proprio sui bonifici delle notti di Arcore, così titola oggi La Repubblica, che scrive di un conto segreto dal quale sarebbero circolati assegni per 1,5 milioni di euro, si starebbe concentrando l'attenzione dei PM. Conto gestito dal contabile di Berlusconi Giuseppe Spinelli. Sulla richiesta di perquisizione del suo ufficio, l'aula della Camera si pronuncerà giovedì alle 19. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E nel nostro sondaggio di oggi vi chiedevamo se fanno bene le donne che in questi giorni protestano per chiedere le dimissioni del premier Silvio Berlusconi. Come sapete, ci sono state proteste in particolare da parte delle donne proprio nelle ultime ore. Bene, la risposta che avete dato è fanno bene per il 59%, no per il 41%. E adesso andiamo all'estero, come annunciato in Egitto, perché è una giornata campale, erano attese 1 milione di persone in piazza, sciopero generale, l'esercito a presidiare le strade. Andiamo nella capitale, al Cairo, dove c'è l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Qual è la situazione, Alberto? Buongiorno a voi. Credo che si tratti di una giornata oltre che campale storica, perché penso che si stia raggiungendo davvero il numero del 1 milione di persone. Ci sono la piazza di Tahrir, piazza della libertà, e sempre più dereggiante di folla, e anche le vie intorno. Dal ponte dei Due Leoni sta continuando ad arrivare una fiumana di gente. Chi sono? È il popolo egiziano tutto. Ci sono giovani, ci sono anziani, ci sono migliaia e migliaia di donne organizzati dai Fratelli Musulmani, dal movimento Kifaya, dal movimento 6 aprile, insomma anche gente che arriva per conto suo, ma credo che l'afflusso non si fermerà, e quando arriveremo verso sera forse avremo anche superato il 1 milione di persone. Piazza della Libertà, Piazza Tahrir, assomiglia in questo momento a Piazza Zadi di Teheran nel 2009, quando ci furono le grandi proteste di massa contro Ahmadinejad. Alberto, avevi parlato nello scorso collegamento a mezzogiorno di voci che si rincorrevano, della folla che crede nelle dimissioni di Mubarak. Sì, credo che fosse anche un po' l'euforia del momento, l'eccitazione che cresceva per questa folla che sta diventando sempre più grande, a chi ha sulla bocca un solo nome e una sola slogan: Mubarak vattene. Però attenzione, è una folla molto molto pacifica, non ci sono slogan truculenti, non ci sono insulti, si chiede soltanto a Mubarak di farsi da parte. Grazie Alberto Negri, come abbiamo sentito dal Cairo. Manifestazione partecipatissima, si faranno più tardi bilanci, ma è davvero una giornata storica questa per l'Egitto, per questa grande partecipazione. Ugo Tramballi, buon pomeriggio. Buongiorno. Ugo, quali potrebbero essere gli sbocchi di questa grandissima protesta, manifestazione, come sentivamo da Alberto Negri, inviato al Cairo, pacifica, però veramente enorme? Si parla di El Baradei, c'è il ritorno di Zawahil, chi potrebbe raccogliere, se ci sarà qualcosa da raccogliere in queste ore? Intanto c'è da notare, da sottolineare ripetutamente quello che ha appena detto Alberto, al posto del quale qualsiasi giornalista vorrebbe essere in questo momento, e cioè la dimensione profondamente pacifica di tutto questo, e questo è importante per pensare al futuro. Tu hai citato alcuni due importanti possibili candidati delle forze democratiche, però oggi è successo, poche ore fa è successo un'altra cosa. Anche Amr Moussa, l'attuale segretario generale della Lega Araba, si è praticamente formalmente candidato alla successione, ha detto a Abu Bakr se ne deve andare e io mi candido, cioè sono pronto a servire il mio paese, cioè quindi a rientrare in Egitto, cioè dove era il ministro degli esteri. Tra l'altro Mubarak, Amr Moussa nelle elezioni del 2005 era il più amato dagli egiziani, che c'erano le canzoni, la gente dedicava ad Amr Moussa delle canzoni. Se il regime si candidasse alle prossime elezioni, un regime riformato naturalmente, si candidasse alle prossime elezioni con un personaggio come Amr Moussa, può darsi che il partito stesso di Mubarak potrebbe anche vincere queste elezioni. Bene, grazie allora per ora anche a Ugo Tramballi per questa analisi sulla situazione in Egitto, che terremo naturalmente sotto osservazione. Continuiamo a parlare per quanto riguarda la presenza italiana nel paese, perché forse tutti non sanno che l'Italia è il terzo paese per l'interscambio con l'Egitto dopo gli Stati Uniti e la Cina. Qual è la situazione al momento per le imprese italiane? Dario Ceccarelli ha sentito l'ingegner Ponziano Prandi, che è responsabile della multinazionale Techint, che si occupa di mega impianti petroliferi. Ma io qua nel paese rappresento un grande gruppo, una multinazionale italiana, e siamo specializzati nell'esecuzione di attività di ingegneria e costruzione di mega impianti industriali, soprattutto nel settore petrolifero, petrolchimico e generazione di energia. In questo momento cosa succede, sia dal punto di vista della sua azienda sia in generale? Voi pensate di rientrare, rimanete in Egitto? Beh, attualmente noi stiamo completando uno dei più grandi impianti petrolchimici nel paese. Logicamente la situazione che si è creata ha comportato che abbiamo fatto rientrare quasi tutti i nostri operatori. Per il momento, diciamo così, la situazione nella sua gravità, però ho deciso di restare appunto per verificare l'evolversi degli eventi. Ma c'è una situazione di pericolo o comunque la sicurezza è ancora tutelata? La situazione di pericolo sicuramente c'è a seguito di quello che è successo, e soprattutto dopo che venerdì scorso, diciamo così, ci sono state le prime avvisaglie di quello che stava succedendo, e quindi soprattutto ovviamente è sparita la polizia ordinaria e subentrando l'esercito. Questo ha comportato che bande di delinquenza ordinaria si è impossessata di determinate aree, strade, eccetera, facendo atti di vandalismo, di distruzione, soprattutto quello che riguarda banche, sportelli automatici, grandi magazzini o supermercati, razziando delle merci di determinato valore. E per cui la gente si è organizzata con un tantam, di ogni palazzo organizzato una specie di self-security con gli stessi inquilini che presidiavano le strade, le case, eccetera, evitando gli assalti di questi gruppi di teppisti. Così dunque la situazione in Egitto anche per quanto riguarda la presenza delle imprese italiane. E veniamo in Italia. Un tris di cordate interessate all'acquisizione della Roma Calcio ha infiammato la borsa. Deborah Rosciani, oggi che cosa resta di questa ipotesi in campo? Allora, intanto resta che sicuramente ci potrebbe essere una svolta, come molti hanno già definito, epocale, con il primo ingresso di una proprietà straniera nel calcio italiano. Per la verità adesso non solo sono tre, ma sono ben cinque le offerte giunte per la cessione della Roma. Infatti è successo che ieri sera, entro il termine ultimo che scadeva alle 18, si sono aggiunte anche le proposte di una cordata francese, di una seconda cordata araba, perché già una molto importante era in lizza, ma tu giustamente hai detto tre, perché le tre di cui si vociferava già da qualche giorno sono assolutamente in pole position, almeno secondo quanto riportano oggi i quotidiani sportivi ma anche il Messaggero. Quali sono queste tre offerte? Sono quelle intanto del fondo arabo controllato per il 70% dall'International Petroleum Investment Company, che a sua volta è posseduto per il 100% dal governo di Abu Dhabi. Ci interessa questo fondo? Ci interessa sì, perché è il primo azionista di Unicredit, e l'ingresso di questo fondo nel capitale di Piazza Cordusio, lo ricorderete tutti molto bene, aveva portato alle dimissioni di Alessandro Profumo. La seconda offerta è quella italiana, è quella di Giampaolo Angelucci, l'imprenditore noto come il re delle cliniche romane, che fanno capo alla holding Tosinvest, e anche l'editore di Libero e del Riformista. La terza cordata è quella americana, è quella di Thomas Di Benedetto, il patron della squadra di baseball Boston Red Sox, sposato, padre di cinque figli, raccontano anche i giornali, è il presidente della società di consulenza e di investimento Boston International Group. Per cui sapremo come andrà a finire questa gara entro la fine della settimana, ma sicuramente la borsa è infiammata intorno a questa vicenda e il titolo oggi torna a crescere del 5%. Alessio. Grazie Deborah, e già che parliamo di calcio, allora facciamo un passo in avanti verso stasera. Si gioca a Milan-Lazio, anticipo della giornata. Altre 11 vittorie per arrivare a quota 80 punti. È l'obiettivo che Max Allegri indica al suo Milan per cucirsi sul petto il tricolore. Dopo due sontuose sessioni di mercato all'insegna della Grander, ultimo arrivo l'ex juventino Le Grottaglie, il tecnico della capolista sa che è il momento di dare la spallata al campionato per poi puntare dritto sulla Champions. Stasera l'occasione è ghiotta di mettere fuori gioco la Lazio, terza staccata di 7 punti. Ibrahimovic sarà della partita, siamo in un momento del campionato troppo importante per lasciare dei punti per strada. Reja chiede ai biancocelesti di scendere in campo a San Siro senza timori reverenziali. Chissà mai che, visto da vicino, magari il diavolo non faccia poi così paura. Bisogna avere anche le qualità, bisogna avere anche l'atteggiamento dal punto di vista mentale di proporre gioco qualora il Milan può avere un calo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:18 minuti, GR24, ben ritrovati. Nella prima parte abbiamo parlato dell'Egitto, manifestazione immensa, pacifica, quasi 500.000 di persone in piazza al Cairo, la folla crede nelle dimissioni del presidente Mubarak. Per la politica, Barbareschi lascia Futuro e Libertà e va con il gruppo dei responsabili. Settimana decisiva per il governo, in arrivo il giudizio immediato per Berlusconi. Ora parliamo dei dati economici di giornata. Sono purtroppo dati negativi perché parlano della disoccupazione giovanile. Quasi un giovane tra i 15 e i 24 anni, uno su tre, è in cerca di occupazione. Sentiamo. Nuovo record per la disoccupazione giovanile, ma è stata così alta da 7 anni, cioè dal gennaio 2004. Secondo i dati Istat, il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni è salito al 29%, un nuovo massimo dopo il 28,9% di novembre. Il tasso di disoccupazione generale, invece, a dicembre è rimasto all'8,6%, stabile rispetto a novembre. Ed è questo elemento che sottolinea il ministro del lavoro Maurizio Sacconi. Si è fermata la discesa dell'occupazione, anzi c'è un leggero recupero, ci sono 11.000 disoccupati in meno rispetto al mese precedente. Per quanto riguarda i giovani, abbiamo deciso che lo strumento principe deve essere il contratto di apprendistato. La situazione dei giovani invece è quella che preoccupa il democratico Cesare Damiano, ex ministro del lavoro nel governo Prodi. Questo è un dato inquietante perché siamo arrivati al 29% ed è in crescita, così come cresce il disagio dei giovani di fronte alla mancanza di lavoro, alla perdita del lavoro, alla precarietà del lavoro. Mi pare che il governo parli molto ma faccia poco. Chiara Di Cristofaro da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E oggi era il primo giorno dell'obbligo dei certificati medici online. C'è stato qualche problema, il server è risultato bloccato, le attese di molti pazienti sono state piuttosto lunghe, almeno questo è quanto denunciano gli stessi medici. Sentiamo com'è andata. Primo giorno dell'obbligo per i medici di inviare online i certificati di malattia ed è caos. Lunghe attese negli ambulatori e un click che diventa impossibile. Questo almeno quanto denunciano i medici di famiglia che da giorni protestano per le sanzioni annunciate dal ministro Brunetta per i camici bianchi che non si adegueranno. Certificati che peraltro sono obbligatori anche per pronto soccorsi e specialisti. Fiorenzo Corti è medico e fa parte dell'Associazione Nazionale Medici di Famiglia. Il sistema è bloccato, i medici oggi non riescono a trasmettere certificati, per accedere al call center ci vogliono oltre i 15 minuti. I nostri medici, se hanno l'ambulatorio pieno e se a questo punto devono passare tutta la giornata a cercare di parlare con il call center, allora è meglio che dedicano il loro tempo alle persone, a curare la gente. Una risposta il ministro Brunetta l'ha già data. Le sanzioni, dice, non scatteranno se il sistema si blocca. Ieri, l'ultimo giorno senza sanzioni, i medici hanno spedito 105.000 certificati online. Per carità, ci sarà qualche blocco, ma però le sanzioni, che pure esistono, sono se un medico si rifiuta. E dunque, che succede? Per ora molti medici stanno compilando il vecchio cartaceo, altri restano collegati al PC o al telefono per contattare il call center. Ai pazienti in coda, per il momento, non resta che attendere. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora una buona notizia sul fronte delle energie rinnovabili. Il 2010 è stato un anno boom per quanto riguarda l'installazione di impianti fotovoltaici, tanto che è stato praticamente raggiunto dall'Italia l'obiettivo che l'Italia stessa si era data da qui al 2020. Sentiamo. Secondo gli ultimi dati pervenuti al GSE, il gestore dei servizi energetici, in Italia potrebbero essere stati installati nel corso del 2010 quasi 6.000 megawatt di impianti fotovoltaici, portando il totale a 7.000 contro un obiettivo al 2020 di 8.000 megawatt. Obiettivo che quindi potrebbe essere raggiunto e superato con quasi 10 anni di anticipo. Buona notizia? Beh, solo in parte. Infatti l'entusiasmo per il risultato non può cancellare le preoccupazioni per l'impatto elevato che avrà tutto ciò sulla bolletta e il rischio che ai microfoni di Radio 24 ci segnala Joel Zunato, responsabile del settore fotovoltaico di Aper. Il rischio è che il dato venga strumentalizzato e che vengano colpiti in maniera indiscriminata gli incentivi, mettendo a rischio tutto il settore. Importante adesso è valutare insieme al gestore dei servizi energetici questi numeri, verificarli per capire quanto siano veri. È tutto, Maurizio Melis, GR24, Il Sole 24 Ore. E ne riparleremo stasera di questo argomento nel consueto appuntamento alle 21.05 con Mr. Kilowatt. Adesso c'è un aggiornamento per quanto riguarda la notizia che ci aveva dato Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore al Cairo per la manifestazione, la super manifestazione proprio nella capitale egiziana. Ebbene, sono arrivati a più di 1 milione i dimostranti raccolti in piazza Tahrir, tutti gli spazi della piazza che fino ad un'ora fa erano ancora vuoti, digita così un'agenzia ANSA di pochi istanti fa, sono ormai occupati e al Cairo la valutazione diffusa è quella che ci sia 1 milione di persone in piazza. E invece adesso torniamo in Italia con la cronaca, perché è ancora giallo attorno alla morte di Elisa, la 25enne trovata morta ieri. Sarà eseguita domani l'autopsia sul corpo di Elisa Benedetti, la 25enne di Città di Castello, trovata senza vita in un bosco alla periferia di Perugia. Gli accertamenti dovranno stabilire se la ragazza è morta di freddo, come ipotizzato dagli inquirenti, oppure di morte violenta e se aveva assunto droghe. L'esame farà luce anche sull'ipotesi di stupro. La notte della scomparsa la giovane ragioniera aveva chiamato il 112 dicendo di essere stata violentata. Le ultime ore di vita di Elisa restano comunque avvolte nel mistero. Si cerca un cellulare della giovane che manca all'appello. Nelle telefonate dei messaggi, forse, la risposta al perché si trovasse in un bosco isolato in piena notte. Beatrice Vergari, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Perugia. Aveva suscitato grande clamore la notizia e poi, come è naturale che fosse, l'attenzione si è abbassata. Parliamo del trafugamento della salma di Mike Bongiorno. Da quando è accaduto il fatto, per la prima volta la moglie si è fatta viva con chi ha sottratto la salma del marito. Aiutatemi a ritrovare Mike. È questo l'appello che Daniela Zuccoli, la moglie di Mike Bongiorno, lancia oggi dalle pagine della Repubblica, parlando per la prima volta da quando la salma del marito è stata trafugata dal piccolo cimitero sul Lago Maggiore dove riposava. La Zuccoli chiede ai banditi che si facciano vivi e, rivolgendosi a chiunque abbia informazioni utili in assenza di novità sul fronte delle indagini, dice: «Se devo fare un appello, lo faccio agli italiani. Siamo pronti a ricompensare chiunque ci dia informazioni utili al ritrovamento di mio marito». Dimostra poi apprezzamento per la professionalità e la delicatezza con cui magistrati e polizia, che non hanno finora ricevuto nessuna richiesta di riscatto, sono vicini alla sua famiglia. Infine, a chi ha voluto ipotizzare un collegamento tra il trafugamento della salma e Berlusconi, per Ombretta Colli si potrebbe trattare di un dispetto al premier, la vedova Bongiorno ci tiene a chiarire: nessuno si deve più permettere di accostare questa nostra tragedia alle vicende di Berlusconi, perché, taglia corto la Zuccoli, nulla avvicina più la mia famiglia al presidente del Consiglio. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo di un'impresa di montagna, perché l'alpinista bergamasco Simone Moro sta cercando di conquistare il Gasenbrun, penso che si pronunci così, nel cuore dell'inverno. Si tratta di uno dei 5-8.000 ancora inviolati nella stagione più fredda. L'abbiamo raggiunto nella sua tenda a quota 7.000 metri, sentite. Bene, siamo a campo 3. Campo 3 significa vicino ai 7.000 metri, quindi siamo 1.100 metri sotto la vetta. Là. E stanotte alle 3 di notte l'intenzione è quella di partire e tentare la vetta. La temperatura ci ha lasciato tranquilli, perché diversamente dagli altri giorni dove abbiamo dormito a meno 46 è arrivata anche oltre il 54-56 sotto zero. Oggi e domani erano previsti due giorni di tregua. Di tregua significa di meno 33, beh, fa la differenza perché sono tanti gradi di meno rispetto ai 46-48 che abbiamo dormito. Ed è previsto così anche domani. L'unica cosa è che oggi è stato tutto il giorno bel tempo, domani c'è solo mezza giornata di bel tempo, poi pomeriggio viene nuvolo e comincia a nevicare. E speriamo che il bel tempo domani duri veramente mezza giornata. Ecco Simone, partendo alle 3 di notte, l'obiettivo è di raggiungere la vetta che ora? Ma secondo me in 10-11 ore, un'ora ogni 100 metri. Ed è tutto per questa edizione di GR24. Alessio Maurizi in studio, Filippo Aureggi in regia. Vi lasciamo alle borse, poi Italia in controluce, America 24. Il GR torna alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.